falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Può la poesia sposare il punk, sposare la new wave? Può finire nei locali nei quali magari hanno appena suonato i Ramones e creare una leggenda? Nel caso della nostra protagonista sicuramente sì. Una delle voci più importanti del rock, la più importante del rock new wave. Questa ragazza, pelle e ossa del New Jersey, ha fatto molta strada. Una ragazza del popolo che per inseguire i suoi sogni ha dormito sulle panchine dei parchi di New York. Una ragazza determinata, piena di un fervore direi religioso nei confronti della musica. Non a caso è stata definita la sacerdotessa del rock, perché nessuna come lei ha creduto profondamente nel potere della musica e nella forza di quello che cantava. Oggi raccontiamo la storia di Patti Smith. Fin da quando ero una ragazzina, ho sempre saputo che avevo un qualcosa di speciale dentro di me. Voglio dire, non ero attraente, non ero molto comunicativa, non ero molto brava a scuola. Non avevo niente che facesse capire al mondo che ero qualcosa di speciale. Ma per tutto il tempo ho sempre avuto questa enorme speranza. Ho avuto questa grande forza che mi ha fatto andare avanti. Ero una bambina felice perché ho avuto la sensazione che sarei andata oltre il mio corpo fisico. L'ho sempre saputo. Patti Smith nasce il 30 dicembre del 46. La madre fa la cameriera, il padre lavora come operaio alla Honeywell, una delle più grandi fabbriche americane. Insomma, un ambiente operaio senza grilli per la testa. La madre è testimone di Geova e per i primi anni della sua infanzia Patti viene allevata nel rispetto della Bibbia. Insomma, il mondo spirituale è un fattore importante nella sua crescita, un fattore che rimane, anche se in modi diversi, una costante nel suo lavoro di artista. Ero molto religiosa da bambina. Mi colpiva il lavoro missionario. Quando ero piccola amavo Albert Schweitzer. A 11 anni mi attaccai moltissimo al Dalai Lama e al Tibet. Volevo fare la missionaria, oppure diventare una scrittrice come la Jo March di Piccole Donne. Dopo aver letto il libro ero convinta di voler diventare una scrittrice e credevo in queste cose, fino a quando mio padre non mi portò al museo di Filadelfia e vidi per la prima volta l'arte. E allora volli diventare una pittrice. In realtà non ho mai pensato di diventare una musicista. Non ho mai dimostrato alcun talento musicale particolare, niente di simile. Musical abilities or any apparent abilities. E dopo il liceo, Patti inizia a lavorare in una fabbrica di giocattoli. Nel frattempo rimane incinta, dà alla luce una bambina che dà subito in adozione. Questo rimarrà insomma una macchia nella sua coscienza, della quale si libererà o forse non si libererà mai. E il lavoro in fabbrica è un'esperienza terribile. Peraltro la sua strada ovviamente non è quella. Decide di abbandonare la vita operaia e va a New York. La madre pensa che si cercherà un lavoro come cameriera, ma Patti ha altre ambizioni, crede nella poesia, nell'arte, nella bellezza e con l'intento di perseguire i suoi sogni raggiunge la grande mela, New York, nel luglio del 67. È povera e sola, non ha amici, ma alla fine trova lavoro in una libreria e trova anche qualcuno a cui affidarsi. Robert è stato il mio migliore amico. L'ho conosciuto nel 1967. Avevamo entrambi 20 anni ed entrambi lottavamo in modo idealistico, come due giovani artisti disadattati e senza soldi che si aiutavano a vicenda nel proprio lavoro. Chi è questo Robert? Robert è Robert Mapplethorpe, il grande fotografo. Anche lui ha 20 anni, è povero e ambizioso. I due vanno a vivere assieme in un piccolissimo appartamento pagato da Patti col suo lavoro alla libreria. È una vita durissima, non hanno un soldo, sono magri al punto che sembrano due scheletri, però hanno un grande senso dell'eleganza, a modo loro naturalmente, un senso molto punk, perché Patti in un'epoca di gonne hippie, veste quasi sempre con jeans strappati, con una semplice maglietta bianca con sopra una camicia militare. Vivono con pochissimo i due. Lei scrive poesie mentre Robert crea dei collage, fa i suoi primi esperimenti fotografici con una vecchia Polaroid. Io ero la cattiva ragazza che cercava di essere buona e lui era il bravo ragazzo che cercava di essere cattivo. E poi nel 69 i due riescono a traslocare nel famoso Chelsea Hotel. La loro vita inizia a cambiare perché il Chelsea Hotel in quel momento è il centro del mondo, pur essendo poco più che una stamberga. Però lì si viene in contatto con gente come Bob Dylan, Allen Ginsberg, Charles Bukowski. Sono sempre senza un soldo, però in quell'anno esce il film Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman che fa il ladruncolo malato, John Voight che fa il mantenuto. A Robert viene un'idea: prostituirsi sulla 42esima strada per raccogliere qualche soldo in più. Ma forse solo il pretesto per Mapplethorpe, che sta scoprendo la sua omosessualità, è un pretesto per sperimentare diverse forme sessuali. Patty invece è sempre più interessata al mondo artisti e vuole dar voce a quel qualcosa di speciale che sente dentro di lei. Quel periodo e quel luogo sono perfetti per quella coppia. I primi anni 70 al Chelsea Hotel di Manhattan. Il falco e il gabbiano. Il debutto di Patti Smith su un palco avviene nel 1971, ma non ha nulla di musicale, è un reading di poesie nel Bowery. Patti Smith recita alcuni dei suoi scritti mentre un chitarrista che si chiama Lenny Kay, segnatevi questo nome, suona in sottofondo. Il reading riscuote un grande successo perché Patti è piena di passione, è diversa da tutti gli altri, è androgena quando ancora non era di moda, jeans e maglietta senza trucco, con i capelli scarmigliati, un'energia che attraversa la sala, ha una determinazione assoluta a trovare la sua strada artistica che colpisce chi è presente e ne spiega il successo che sta per arrivare. La ragione ce la spiega il suo biografo, Victor Bokris. Fu un avvenimento incredibilmente efficace, una piccola cosa che però fece la differenza perché nessuno l'aveva mai fatta prima. Insomma, da quel momento Patti diventa una figura abituale nella scena underground newyorkese di quel periodo, ma lei non si accontenta. Lenny Kay continua a accompagnarla alla chitarra e lei comincia a considerare la possibilità di rendere queste esibizioni dei veri e propri concerti. Comincia a scrivere per alcune riviste di musica e il coinvolgimento aumenta quando riceve la sua prima chitarra. È un dono che le fa l'uomo che ha preso il posto di Mapplethorpe, si chiama Sam Shepard. Non ha ancora 30 anni, ha già scritto per il cinema, per il teatro, diventerà poi un famosissimo sceneggiatore, attore, sposerà Jessica Lange, giusto per dire. Però insieme a Patti scrive una pista teatrale ispirata alla loro storia, Cowboy Mouth. Nel frattempo lui la incoraggia a cantare. Mi sosteneva molto. Gli piaceva quello che scrivevo, mi incoraggiava a esibirmi, mi mise nella condizione di esibirmi con la mia poesia e anche a iniziare a cantare. E così Patti fonda il suo gruppo, il primo all'epoca a avere il nome di una donna, Patti Smith Group. La sua prima canzone, Peace Factory, è un lungo monologo accompagnato dalle note del pianoforte e della chitarra in cui lei racconta la sua esperienza di operaia. Però il vero debutto avviene nel 75 con l'album Horses, prodotto da un gigante, da un grandissimo del quale abbiamo già parlato, John Cale, di scuola Velvet Underground. La prima canzone è una cover di Gloria dei Them di Van Morrison, però è anticipata da una lunga parte poetica scritta da Patti con la famosa frase: Gesù è morto per i peccati degli altri ma non per i miei peccati sono solo miei, mi appartengono. È una vera e propria rivoluzione, è l'inizio di un'epoca, come ci spiega il critico musicale del Rolling Stone Anthony De Curtis. Gesù è morto per i peccati di qualcun altro, non i miei, era una dichiarazione molto coraggiosa ed era davvero considerato come l'inizio di una nuova religione. Dall'altra parte, evocare Gesù, evocare quel genere di religiosità, È anche una forma di dichiarazione che significa voglio quel genere di intensità, voglio quel genere di significato, voglio realizzare qualcosa di molto diverso da cantare semplicemente in un club, per la gente, continuando a mantenere una repressione. Voglio liberarvi, sono qui per questo. E credo che sia questa la forza del suo messaggio. L'album Horses è anticipatore, è diverso già dalla copertina. C'è Patti Smith in camicia e cravatta. È particolarissimo, insomma, in un mondo che vede la donna completamente raffigurata in un'altra maniera, insomma. Viene definita la sacerdotessa del rock. In realtà lei è oltre il rock, soprattutto oltre quel tipo di rock che stava diventando commerciale. Patti Smith inaugura una stagione che è già in odore di punk, sarà l'ispirazione per molti artisti della generazione immediatamente successiva. Stavo davvero cercando attraverso la mia lingua, attraverso l'improvvisazione, attraverso il ritmo della mia band, di ricordare alla gente le radici dirompenti del rock. E volevo che la gente si ricordasse di mantenere alta quella fiamma. Non mi aspettavo davvero di fare dischi. È semplicemente accaduto. E grazie a Horses la vita di Patti Smith cambia radicalmente. La sua poesia viene cantata da migliaia di ragazzi che ne scoprono il potere dirompente. La strada è segnata. E per il suo secondo album lei continua a scrivere musica nel solco dei grandi poeti americani, a partire da Allen Ginsberg, ma anche prendendo ispirazione direttamente dal suo poeta preferito, che è il francese Arthur Rimbaud, che Patti considera, e non ha torto, la prima vera rockstar. A Rimbaud ha ispirato il titolo dell'album Radio Etiopia, il paese nel quale Rimbaud si trasferì giovanissimo dopo la fine della sua storia d'amore con Paul Verlaine. Con Radio Etiopia, Patti Smith è decisa a fare un album diverso dal primo, a esplorare nuove direzioni. Ci riesce, però il risultato è anche un album che non ha lo stesso successo commerciale di Horses, però è solo una tappa verso un lavoro ancora migliore. You have to go beyond. Devi andare oltre, oltre il riflesso, oltre lo specchio, oltre. Il falco e il gabbiano. Vi stiamo raccontando la storia di Patti Smith, la sacerdotessa del rock, la grande icona della scena musicale newyorkese di fine anni 70, quella che ha costruito le basi del punk, della new wave, con dei suoni duri, graffianti. Pensare che i suoi sogni da bambina erano molto più normali. Da bambina non pensavo di diventare una rock star. Sognavo di essere una cantante d'opera. Piangevo ascoltando Maria Callas e volevo diventare come lei. Ma ero troppo magra. Forse dobbiamo ringraziarla quella magrezza per il suo successo. E certo, la sua immagine è diversa da quella di tutte le altre donne, anche diversa dal, come dire, dal suo alter ego, perché il suo contraltare è una figura completamente diversa. Deborah Harris, Debbie Harris dei Blondi, che invece è sexy, è provocante. Lei invece, Patti, ha sempre quest'aria senza trucco, con gli immancabili jeans stracciati. I palchi sono gli stessi, l'approccio è opposto. Non cerco di sedurre, sono quello che sono. Se vengono 10 persone o se ne vengono 10 milioni, bene, io credo in quello che faccio. What I do, I believe in. Ma è proprio questa la sua forza, è una specie di raw power, come direbbe Iggy Pop, una carica essenziale, senza trucchi, senza nessun tentativo di ammorbidire il suo rock. Il suo desiderio è prima di tutto quello di risvegliare questa carica nel rock, ce lo racconta anche Mark Patris, autore di una sua biografia. In un certo senso il rock era quasi morto, o almeno la fiducia in un rock che potesse avere la forza di trasformare le cose, di poterle rivoluzionare. E invece Patti voleva riattivarne proprio la sua anima più dirompente. E per Patti l'essenza del rock è il fatto che il rock è una rivoluzione. Con questa sua idea prosegue tutto il suo lavoro. Durante un concerto in Florida cade dal palco, si frattura delle vertebre, rimane bloccata per un lungo periodo ed è l'occasione buona per continuare a produrre poesia. Lavora al suo terzo disco che si chiama Easter, uscirà nel 78 e forse il suo disco più famoso perché contiene una canzone che lei ha scritto assieme a Bruce Springsteen, la canzone è Because the Night. E con Easter Patti viene consacrata definitivamente come icona del rock ed esce un altro album l'anno dopo, si chiama Wave, un disco un po' più commerciale però con due grandi canzoni, Dancing Barefoot e Frederick, dedicata a quello che diventerà suo marito. Eh sì, perché dopo molte relazioni, quantomeno particolari, fra Mapplethorpe che era gay, Sam Shepard che era sposato, eccetera, lei trova l'amore vero. Si chiama Fred Sonic Smith, chitarrista di una band mitica, erano gli MC5 di Detroit, una band che aveva influenzato tantissimi musicisti dell'epoca. Un giorno gli MC5 aprono un concerto di Patti Smith. Fred Sonic Youth e Lenny Kay si conoscono, vengono presentati Fred e Patti e due anni dopo i due si sposano, li unisce non solo la musica ma anche l'amore per la poesia, anche il cognome, si chiamano Smith entrambi. Circola la battuta che Patti abbia sposato Fred Smith solo per non dover cambiare cognome, in realtà l'unione è una cosa regolare. Nel frattempo lei continua a suonare in giro, arriva anche in Italia in un mitico concerto fatto a Bologna allo stadio, dove lei era abituata a esibirsi nei club, insomma era palesemente un po' a disagio di fronte a 40.000 persone, ma in Italia c'era talmente tanta voglia di rock che andarono tutti a vedere in uno stadio un concerto da club. Poi lei sceglie di seguire Fred a Detroit, di smettere di suonare e di dedicarsi alla famiglia. È una fatta così che non accetta compromessi. L'impegno è di vitale importanza. Io credo nel mettere tutto ciò che si sa in quello che si sta facendo, che si tratti di giardinaggio, del preparare un buon pranzo o produrre un'equazione matematica. E così per 17 lunghi anni Patti Smith sparisce dalle scene musicali, fa la mamma, nascono Jackson nell'82 che in seguito sposerà Meg White dei White Stripes, poi nasce Jesse nell'87 e in quel periodo pubblica solo un disco, Dream of Life, però con una canzone che ha molto successo che si chiama People Have the Power. Poi la sua voce si spegne nuovamente anche per metabolizzare il dolore, perché nell'89 muore per AIDS il suo grande amico, il fotografo Robert Mapplethorpe, e ha solo 42 anni. Lei gli è sempre rimasta vicino e lo è anche negli ultimi giorni di Mapplethorpe, si sentono al telefono, è lei che gli infonde il coraggio di accettare il suo destino. E poi nel 1994 il grande amore della sua vita, Fred Sonic Smith, muore per un improvviso attacco di cuore. Fred was a very fine man. He's a very complicated man, very gifted man. Fred era un uomo molto gentile, un uomo molto complicato, molto dotato. La cosa migliore che posso dire di Fred è che era un ottimo padre. Di tutti i suoi doni, questo era quello in cui dava il meglio di sé. Era un bravo papà, gentile e compassionevole, che voleva davvero dei bambini e li amava. Era un buon padre. E poi qualche mese dopo si spegne anche il fratello di Patti Smith, ancora per un attacco di cuore, è veramente troppo. Patti sente il bisogno di tornare nella città che l'ha sempre accolta, che l'ha sempre salvata e che lei ha sempre amato, New York. Nel 96 prende i bambini e torna lì, dove trova amici ad accoglierla, da Michael Stipe dei Rem al vecchio Allen Ginsberg. Fa un tour insieme a Bob Dylan e poi ci sono altre collaborazioni e un nuovo disco, Gone Again, il primo album dopo la morte di Fred. Credo che Gone Again non sia tanto un disco sulla morte, ma su come noi che ancora viviamo affrontiamo la cosa, come la esaminiamo e di come nonostante tutto riusciamo ad andare avanti. insomma, dopo tanti dolori si riparte, c'è una nuova fase per Patty, è segnata da molti dischi, Peace and Noise, Tramping, il più recente bang è uscito nel 2012, e in questa sua seconda vita lei viaggia molto, spesso viene in Italia, suona a Torino, canta perfino a Sanremo nel 2012, duetta con i Marlene Kunz, canta Impressioni di Settembre della PFM e per l'occasione ripropone a un pubblico invisibile Because the Night, e poi, visto che è la sacerdotessa del rock, incontra anche Papa Francesco che la invita a cantare in Vaticano. Il rock si può coniugare con la spiritualità? Posso rispondere solo per quella che è la mia esperienza. Per me sì, perché nella vita non metto le cose in compartimenti diversi. Se hai un lato spirituale, lo porti in tutte le cose che fai, quando tagli il pane, curi i tuoi bambini, scrivi una poesia, canti una canzone. Una vita complessa, quella di Patti Smith, che parte dalla povertà operaia, arriva a New York, arriva al Chelsea Hotel, passa anche attraverso una figlia della quale si è liberata, con evidentemente sensi di colpa che le sono rimasti tutta la vita, passa attraverso il dolore come la vita di tutti, ma passa soprattutto dal punk al rock and roll. Patti Smith, se si parla di musica al femminile, è veramente, come dire, in prima linea. E ci sono storie, a volte sconosciute, di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno, hanno tentato, hanno avuto cadute e risalite. Tutti noi possiamo dare quel colpo d'ala che ci può portare a volare in alto come il falco, come il gabbiano. Se volete mandarci dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure visitate la nostra pagina su radio24.it. E poi ci sono i social, come sempre, e il mio Facebook, il mio Twitter e quelli del Falco e il Gabbiano, Facebook e Twitter. Insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.